corre, corre come un treno. La mia vita sta cambiando e tu con me stai crescendo e tu con me stai andando dove il destino porterà. Ci vuole coraggio, ci vuole testa, ma soprattutto fortuna. Mi son comprato un cavallo e l'ho chiamato Filippo e siamo partiti per le colline alla conquista di un deserto. Saranno mesi di paura, ma son convinto di tornare. La mia spada sarà sempre lucida ed il cappello in testa. E corre, corre questo treno, questa vita fa paura, senza fermate intermedie, si arriva sempre e si parte ancora, per poi andare e non si sa. Un altro viaggio